tutte e tutti, contrattacco, la prima serata di contrattacco prosegue con uno spettacolo, recital sulla diserzione e l'insubordinazione. E qualche anno fa sul nostro blog, il blog di Wuming, Jap, pubblicammo una dissezione, proprio una critica spietata, uno smontaggio di uno spettacolo di Simone Cristicchi che si chiamava Magazzino 18, che parlava dell'esodo istriano, delle foibe, di storie del confine orientale. Pubblicammo un articolo di un amico storico che faceva a pezzi lo spettacolo. Cristicchi reagì sopra le righe con insulti, mobilitando tromboni, amici giornalisti, eccetera, nell'attaccarci per aver... E addirittura a un certo punto accusò noi, il nostro amico, di essere i mandanti di un'azione che lui diceva di aver subito, che gli aveva tagliato le gomme della macchina. Qualche tempo dopo, esasperati per il fatto che ogni 10 febbraio, il giorno del ricordo, viene pubblicata su vari giornali, su vari siti, una foto dove si vede un plotone di esecuzione e viene scritto che quelli lì sono partigiani titini che uccidono inermi italiani, eccetera, quando la foto mostra il contrario, mostra un plotone di esecuzione dell'esercito italiano che a Dane in Slovenia sta fucilando 5 ostaggi civili sloveni, quindi la realtà viene capovolta. Ci siamo accorti che non era la sola foto mistificata in questo modo e abbiamo pubblicato su Jap un'inchiesta su queste foto, che è diventato un post virale e un sempreverde che viene linkata continuamente tutti gli anni dallo stesso nostro amico storico che aveva scritto il pezzo su Cristicchi. La settimana scorsa sul sito di Internazionale è uscito un pezzo sulle commemorazione del centenario della vittoria della Grande Guerra, un pezzo incentrato sulla diserzione che si chiamava La Grande Guerra senza la retorica nazionalista ed era il controcanto rispetto a tutte le stronzate patriottarde che stavamo sentendo in quei giorni, dette da Mattarella, dette da tutti quanti, eccetera. Quell'articolo diceva delle cose molto semplici che qualche tempo fa, insomma, tipo negli anni 70, ad esempio, sarebbero state l'ABC, ma che oggi riaffermate con forza e si sentono talmente poco, e il pezzo era una rasoiata, è diventato viralissimo, ha avuto nel giro di pochi giorni 26.000 condivisioni su Facebook e da una settimana il pezzo più letto sul sito di Internazionale. Questi tre articoli che ho nominato sono stati scritti dalla stessa persona che è qui, Piero Puric. Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto presenta uno spettacolo il cui nome è Rifiuto la guerra. Renitenti, disertori, pacifisti, ammutinati. Un omaggio a coloro che cercarono la grande guerra vista da chi cercò di evitarla. Perché questo spettacolo? Io abito a Trieste, mia moglie, che è lei, Livia, abita a Ronchi, per cui quasi quotidianamente passo davanti al Sacrario di Puglia. E ogni giorno non posso fare a meno di provare una rabbia infinita a pensare che questi disgraziati che sono morti per niente continuano a essere presi per il culo, primo con tutta una serie di cerimonie delle autorità militari, che probabilmente la maggior parte di loro vedeva come fumo negli occhi, e secondo per il fatto che sono stati militarizzati anche da morti, perché davanti c'è il fucilatore Duca Emanuele Filiberto, poi ci sono i generali e poi c'è la truppa. Un'ultima cosa, questo spettacolo parla di guerra, è casuale, però volevo ricordare che oggi è il 25esimo anniversario dell'abbattimento del ponte di Mosta, che è stata la guerra che probabilmente è stata più vicina a noi e che dimostra come la logica militare, la logica di guerra, fondamentalmente sia sempre la stessa. Questo, quello che sentirete in questo spettacolo è quello che accade in qualsiasi guerra. Francesco Ferdinando d'Asburgo. Dopo un mese, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Il perverso gioco delle alleanze europee, nel giro di poco più di 10 giorni, allarga il conflitto a tutta l'Europa. Le reali ragioni della guerra sono, come sempre, di natura economica. L'impero tedesco ha avuto un fortissimo sviluppo industriale, che ne sta profilando l'egemonia sul continente. L'industria pesante tedesca ed austriaca stanno prendendo il sopravvento sul mercato mondiale dell'acciaio. La Germania ha costruito un impero in Africa e nel Pacifico e gli inglesi ne temono la concorrenza. Per la prima volta dai tempi di Napoleone, il dominio britannico sui mari è a rischio. Gli industriali tedeschi stanno realizzando la ferrovia Berlino-Baghdad, che potrebbe risultare un'alternativa su rotaia al trasporto di merci dall'Oriente attraverso il canale di Suez, da cui gli inglesi e i francesi traggono ingenti dazi. Chiaramente i veri motivi economici restano nascosti. La propaganda degli stati e del capitale spinge su altre parole d'ordine: patria, nazione, onore. I giornali fanno da cassa di risonanza. Molte celebrità si rendono disponibili a questo gioco. Scattano forme di suggestione di massa e di condizionamento. Migliaia di ragazzi si entusiasmano e si arruolano con ardore giovanile per difendere il sacro suolo della patria. Altri vedono nella guerra la possibilità di sfuggire alla routine quotidiana attraverso quella che sembra essere un'avventura eroica di breve durata. Altri ancora pensano che sarà l'ultima guerra dell'umanità e che poi finalmente verrà la pace e la definitiva estirpazione dell'ingiustizia. L'esaltazione collettiva pervade tutti, compreso Adolf Hitler, che in questa foto si vede entusiasta a Monaco alla notizia della dichiarazione di guerra. Il patriottismo fa apparentemente svanire le differenze di classe e sembra prefigurare la società migliore che ci sarà alla fine del conflitto. È un fenomeno che coinvolge anche i socialisti, che fino a qualche mese prima manifestavano con parole d'ordine come solidarietà di classe e internazionalismo. Nella maggior parte dei paesi europei, i partiti socialisti votano i crediti di guerra. Solo Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg, James Connolly e Matteotti condannano in maniera incondizionata l'appoggio dei partiti operai alla guerra voluta dalla borghesia. Al coro bellicista si uniscono personaggi famosi, artisti, intellettuali e scienziati: Anatole France, Maeterlinck, Musil, Freud, Thomas Mann. Henri Bergson scrive: la guerra alla Germania equivale a combattere la barbarie. Wilhelm Wundt, uno dei fondatori della psicologia moderna, dall'altra parte, usa quasi le stesse parole. La guerra alla Russia è una guerra sacra per la civiltà. 93 scienziati ed intellettuali tedeschi firmano un appello al mondo della cultura in appoggio all'esercito tedesco. In Francia viene proibita la musica di Beethoven e di Wagner. Solo poche voci si schierano controcorrente. Jean Jaurès, leader del Partito Socialista Unificato francese, proclama la sua contrarietà alla guerra in nome della solidarietà internazionale e cerca di costruire un comune movimento pacifista tra Francia e Germania, ma viene assassinato a Parigi. Il suo assassino è assolto da una giuria popolare perché l'eliminazione di Jaurès in quel momento è considerabile un atto patriottico. Il premio Nobel per la pace 1911, l'austriaco Alfred Fried, è costretto all'esilio in Svizzera, dove si rifugia anche lo scrittore francese Romain Rolland, colpevole di aver lanciato un appello a tutti gli intellettuali d'Europa a tenersi di fuori del nazionalismo e della guerra. A Vienna, Karl Kraus scaglia la sua sprezzante ironia contro la febbre nazionalistica che si è abbattuta sull'Europa, ma il suo giornale, Die Fackel, subisce ripetuti sequestri. Il 15 agosto del 1914, in Inghilterra, Bertrand Russell sottolinea i paradossi della guerra. Un mese fa, l'Europa era una pacifica comunità di nazioni. Se un inglese avesse ucciso un tedesco, sarebbe stato impiccato. Oggi, se un inglese ammazza un tedesco o se un tedesco uccide un inglese, costui è un eroe che ha ben meritato per la patria. Per queste dichiarazioni Russell viene licenziato dall'università in cui insegna e incarcerato. Valentin Bulgakov, seguace e biografo di Tolstoi, diffonde un appello contro la guerra in Russia, ma viene arrestato e condannato al carcere. Addirittura nella neutrale Svezia, il socialista Seth Hoglund viene incarcerato per la sua propaganda pacifista. Benedetto XV, eletto Papa in settembre, tenterà per tutta la durata del conflitto una vana mediazione tra i paesi belligeranti, parlando di inutile strage. Albert Einstein, in Germania, dice: «Chi marcia con gioia in file oranghi ha già guadagnato il mio disprezzo. Gli è stato dato un cervello per errore. Il solo midollo spinale sarebbe sufficiente». È mia convinzione che uccidere con il pretesto della guerra non sia altro che omicidio. Contro il manifesto dei 93 scienziati tedeschi aderisce ad un appello per la pace e l'unità dei popoli europei, ma i firmatari sono solo 4. La partenza dei primi contingenti si svolge in un clima di euforia generale. Molti sono convinti che la guerra sarà una passeggiata eroica e che torneranno presto coperti di onore. Senza avere la più lontana idea del macello che li aspetta, i soldati marciano nelle strade delle città e le donne salutano i loro eroi con baci e fiori. Nelle foto d'epoca, la propaganda mostra tradotte euforiche e grondanti di eroico patriottismo, bandiere al vento, scritte addimentose sui vagoni dei treni. Qualche mese dopo, quando cominceranno ad arrivare nelle case i bollettini di guerra e gli elenchi dei caduti, le partenze saranno diverse. Folle silenziose al posto di donne entusiaste, reclute angosciate e piangente invece dei baldanzosi soldati della prima leva, ormai già sepolti nelle retrovie del fronte. Solamente una piccola minoranza di richiamati rifiuta di arruolarsi: anarchici, socialisti internazionalisti, marxisti, tolstoiani e cristiani radicali. In Francia solo l'1% dei mobilitati alla leva non si presenta. In questa foto un non volontario ad un raduno contro le leve in Inghilterra. Chi esprime apertamente il suo rifiuto subisce pene pesantissime, lunghe condanne al carcere duro, in fortezze militari o in manicomi. Alcuni obiettori di coscienza vengono condannati a morte o all'ergastolo, altri muoiono per le condizioni di reclusione o per i maltrattamenti. L'inglese Abel Bernard Freeman scrive alla commissione di leva: «Se non mi verrà garantita la completa esenzione dal servizio militare, sono preparato ad essere fucilato per i miei principi che non permetto siano violati». Altri non si presentano o fuggono in paesi neutrali. Dall'Austria-Ungheria, qualche migliaio di renitenti si rifugia nell'ancora neutrale Italia. Sono i redentisti, ma anche disertori anarchici e socialisti internazionalisti, che dopo l'entrata in guerra contro l'Austria rifiuteranno di combattere per l'Italia. Giuseppe De Grassi, un richiamato austriaco di Isola d'Istria, scappa in Italia per non dover imbracciare il fucile, Quando viene convocato per essere arruolato nell'esercito italiano, risponde: «Sono scampato dall'Austria per non dover sparare a russi e serbi. E adesso dovessi andare a copare mio fratello o il mio vicino di casa?» Sconterà 7 anni di carcere in Sardegna. Nei paesi dove la guerra comincia più tardi e già si sa dei massacri, c'è la consapevolezza che i soldati non vanno incontro alla gloria e ad una guerra breve, ma al rischio concreto di morire. In Italia il numero dei renitenti all'arruolamento è più alto che negli altri paesi, ben 470.000, di cui 370.000 residenti all'estero, soprattutto nelle Americhe, che si guardano bene da rimpatriare. Canzoni che trattano della renitenza sono estremamente rare, per il fatto che le dichiarazioni di guerra furono accolte con grande entusiasmo dalle masse. Nei paesi che entrarono in guerra dopo, invece, l'entusiasmo fu sostituito da una forte preoccupazione. «I didn't raise my boy to be a soldier», «Non ho cresciuto il mio ragazzo per farne un soldato», è un brano del 1915. Una madre americana non intende permettere che suo figlio venga mandato al fronte a morire ed uccidere altri figli di altre madri. La canzone, composta dal musicista Al Piantadosi e dal paroliere Alfred Bryan, fu un grande successo discografico. Vendette oltre 700.000 copie e risultò il disco campione di incassi negli Stati Uniti nel gennaio 1917. Diventò un vero e proprio inno per gli americani neutralisti, ma la sua fortuna terminò in aprile, quando il presidente Wilson, in barba alle promesse elettorali di restare neutrali che lo avevano portato alla rielezione, fece entrare in guerra gli Stati Uniti. La casa discografica fu persuasivamente consigliata a sospendere la stampa del disco e della spartita. A million soldiers to the war. Al fronte, i primi soldati sono catapultati in una situazione infernale. Si aspettano una guerra ottocentesca, immaginano sfanti col moschetto e cariche di cavalleria. Invece, si trovano di fronte a strumenti di morte del XX secolo. I soldati francesi indossano ancora la vecchia uniforme della guerra franco-prussiana, calzoni rossi, giubba blu e berretto. Diventano bersagli da tirassegno. Nonostante questo, ci vorranno quasi 3 anni prima che tutti gli eserciti adottino l'elmetto metallico. Centinaia di migliaia di soldati vengono mandati a farsi massacrare davanti alle trincee nemiche, falciati dalla mitragliatrice, la nuova arma che spara oltre 500 colpi al minuto. Un battaglione di giovani soldati di fanteria inglesi marcia baldanzoso ed ignaro verso le trincee nemiche, facendosi precedere da una cornamusa e da un saltellante pallone da rugby. Viene sterminato. 40.000 volontari tedeschi, appena usciti dalle scuole e dalle università, sono massacrati nelle Fiandre. Si parlerà di Kindermord by Ypres, la strage degli innocenti di Ypres, ad indicare con una metafora biblica la giovanissima età e il numero di caduti. Nel novembre del 1914 il fronte occidentale si stabilizza. Non più attacchi d'avanzate, ma un'estenuante guerra di trincea che si protrarrà in pratica fino alla fine del conflitto. Sul fronte orientale, quello balcanico, la guerra sarà più dinamica, ma i soldati vivranno identici orrori. Nei ricordi dei combattenti di tutti i paesi, la guerra di trincea è un inferno di sangue, fango e merda. I fanti attendono per giorni senza fare nulla, con i cecchini sempre in agguato. Quando l'attacco è imminente, le artiglierie bombardano le postazioni nemiche per eliminare ogni resistenza. Nei piani dei generali, questo dovrebbe permettere ai soldati di lanciarsi all'attacco delle trincee nemiche sguarnite. Ma non è così. Spesso le artiglierie sbagliano il tiro e bombardano le proprie linee. Altre volte, le comunicazioni con i comandi si interrompono e l'attacco della fanteria viene sferrato troppo presto, quando i cannoni stanno ancora bombardando, o troppo tardi, quando i nemici sono già tornati in posizione. Gli attacchi alle trincee nemiche si risolvono con carneficine che costano la vita ai soldati senza alcun risultato pratico. Muoiono centinaia di migliaia di giovani. Nel solo primo giorno della battaglia della Somme cadono 21.000 britannici. In determinati settori del fronte occidentale, la sopravvivenza media di un militare è di 18-20 settimane. Il 60% delle reclute mandate in prima linea muore entro il primo mese. Per molti, l'esperienza della guerra al fronte non dura più di 30 minuti. Dietro ai fanti che devono uscire all'attacco, ci sono le mitragliatrici della retroguardia o le pistole degli ufficiali pronte a sparare su chi esita. Scrive Karl Kraus: la patria è il nemico, il vero nemico, quello che con le mitragliatrici vi spinge davanti alle mitragliatrici. Nell'esercito italiano il compito è assolto da plotoni di carabinieri. Ma quale piave mormorava, racconta un reduce siciliano. Avevamo i carabinieri dietro che ci sparavano e davanti il nemico. Behind the line, if you want to find the sun. spesso appesi ai reticolati o abbandonati nella terra di nessuno. L'odore di putrefazione è dovunque. Nessuno può recuperare quei corpi che stanno marcendo. A volte, i cadaveri più vicini alle linee fortificate vengono utilizzati per sostituire sacchetti di sabbia a protezione delle trincee. Tra le due linee, dopo gli attacchi, i feriti agonizzano e urlano per notti intere prima di morire, senza che i compagni possano fare nulla. Si diffondono tifo, colera e dissenteria. Pidocchi e ratti sono i compagni inseparabili dei soldati in trincea, assieme a paura, noia, freddo, colpi dei cecchini. I soldati degli eserciti che si contrappongono vivono gli stessi disagi, le stesse inumane condizioni di vita, le stesse paure, le stesse vessazioni da parte degli ufficiali. E gli stati maggiori li trattano esattamente nello stesso modo. Carne da cannone, numeri da sacrificare. La monotonia della vita di trincea è movimentata solo da poche occasioni. L'ispezione da parte di qualche pezzo grosso e le voci che si diffondono su attacchi e avvicinamenti di truppe. L'unico vero momento lieto è l'arrivo della posta. Notizie di casa, pacchi con cibo o vestiti più adatti, qualche libro, giornali, di solito pubblicazioni propagandistiche di guerra. I soldati rispondono, ma le lettere sono brutalmente sottoposte a censura. La quantità di posta spedita dai coscritti è così grande che presto gli uffici censura ed addirittura i servizi postali non sono più in grado di controllarla e nemmeno di smaltirla. In Austria-Ungheria le lettere spedite nel corso della guerra sono addirittura 1 miliardo. Lo Stato Maggiore decide di risolvere la questione in modo drastico. Nel 1916 viene stampata una cartolina con scritto «Sono sano e sto bene» nelle 9 lingue dell'impero. Il soldato può solo firmare la cartolina. Presto non si potrà più mandare altro tipo di corrispondenza e il problema censura sarà risolto. Qualche sporadico diversivo è dato dalle feste. Nei primi anni di guerra, per il compleanno del re o dell'imperatore, vengono distribuite razioni speciali di cibo o alcolici. Lo stesso accade per il primo Natale sul fronte occidentale. Il 24 dicembre 1914, nelle Fiandre, è una nottata particolarmente mite, stelle nel cielo e freddo non pungente. Qualche soldato urla gli auguri alla trincea opposta e gli auguri vengono ricambiati. Qua e là i soldati si accordano per scambiarsi come dono di Natale ciò che in un esercito manca, ma nell'altro è addirittura superfluo. Dove le trincee sono sufficientemente vicine, si lanciano da una parte scatolette di conserva, dall'altra sigarette o borracce riempite di grappa. I sottufficiali avvisano i propri pari grado, dall'altra parte, che il giorno dopo non spareranno neanche un colpo. Poi, in qualche punto del fronte, i soldati tedeschi issano davanti alle trincee dei piccoli alberi di Natale, ornati di candeline, e intonano una canzone nota a tutti. E la musica diventare quella notte la più potente arma antibellica. Ciò che riesce veramente a fermare la guerra è un canto. Un canto che bagaglia musicali di tedeschi, inglesi, francesi e belgi. Un canto che ricorda a tutti i soldati la lontananza di casa e degli affetti. Ricorda l'ultimo Natale vissuto tra le mura domestiche un anno prima, quando tutto ciò che stanno vivendo era semplicemente inconcepibile. Francesi e inglesi urlano «Bravi Boche, buon Natale!» e intonano a loro volta la stessa canzone. Presto, da una parte e dall'altra del fronte, vi un unico coro in più lingue. Thank you. là, lungo il fronte esteso 700 chilometri, succede l'impensabile. Sporadici soldati, rischiando di essere uccisi, escono dalle trincee, chi sventolando un fazzoletto bianco, chi portando un piccolo albero di Natale, chi una bottiglia o delle sigarette, chi tenendo semplicemente le mani alzate. Nessuno spara. I coraggiosi soldati di pace arrivano davanti alle trincee nemiche. La proposta è sempre la stessa. Una tregua per il giorno di Natale, per seppellire i morti che stanno nella terra di nessuno. Il puzzo dei cadaveri è insopportabile da una parte e dall'altra. La tregua è accordata. E spesso i messaggeri ritornano alle proprie posizioni con un dono dei soldati nemici. Quella notte il fronte tace. Non ci sono né spari né esplosioni. Il mattino dopo, dove si è stabilito il cessate il fuoco, i soldati escono con cautela dalle proprie postazioni ed iniziano a recuperare i compagni morti. A volte le cerimonie di sepoltura sono comuni. Quando l'operazione è finita, nessuno ha intenzione di rompere quella strana tregua. I soldati si attardano nella terra di nessuno. Qualcuno porta con sé una bottiglia per brindare a Natale con i nemici, altri sigarette o cibo in scatola. Si scattano foto dei propri commilitoni assieme ai nemici. Le ore senza sparare si allungano. Un barbiere inglese taglia i capelli ai tedeschi. Con qualche pallone, lattine o palle di stracci si improvvisano partite di calcio. I soldati si mostrano reciprocamente le foto di mogli, fidanzate e figli. Si scambiano confidenze sulla vita di trincea. Scoprono che stanno vivendo lo stesso inferno di fango dei nemici. Alcuni soldati tedeschi, che prima dello scoppio della guerra vivevano in Gran Bretagna, consegnano ai nemici lettere da recapitare alle loro donne inglesi, con cui non possono più comunicare. Presto alla tregua si uniscono anche sottufficiali e ufficiali di grado più basso, quelli che condividono la trincea con la truppa. Fraternizzano con i pari gradi dell'esercito avversario. Per 3 giorni su quasi tutto il fronte occidentale non si spara, finché la situazione arriva a conoscenza della stampa e degli stati maggiori. I giornali escono con la notizia di quella tregua incredibile, addirittura con le foto dei soldati tedeschi ed inglesi insieme. È un episodio intollerabile per gli alti ufficiali. Iniziano furiose visite al fronte. Viene diramato l'ordine di sparare ai nemici che si trovano disarmati sulla terra di nessuno e sui propri commilitoni che stanno fraternizzando. La maggior parte dei soldati spara in alto, ma cecchini ed esaltati nazionalisti eseguono gli ordini. Nemici e compagni disarmati vengono colpiti alle spalle ed i soldati tornano a rintanarsi nelle trincee. Alla stampa viene proibito di riportare notizie di tregua, pena l'arresto dei giornalisti per disfattismo e il loro arruolamento immediato. Il 28 i combattimenti riprendono, ma alcuni settori riusciranno a tenere duro fino a Capodanno, poco oltre, inscenando una guerra finta con colpi sparati in aria. Quando gli stati maggiori se ne accorgono, sostituiscono le compagnie o utilizzano l'artiglieria. Il 3 gennaio la tregua è definitivamente sconfitta. La guerra riprende. Il Natale successivo ci saranno sporadici tentativi di replicare il cessate il fuoco, ma i comandi sono preparati. I cecchini vengono appostati preventivamente e chi fraternizza va incontro alla corte marziale. Le tregue del Natale 1915, nei pochi luoghi in cui riescono, durano solo poche ore. Doberdò fu teatro di una battaglia furiosa nell'agosto del 1916. L'abitato fu raso al suolo e il paese carsico divenne sinonimo di morte certa per i soldati di entrambi gli schieramenti. Per questo a Doberdò sono dedicate struggenti canzoni ungheresi, tra le quali quella con cui si è aperta questo spettacolo, italiane, come la nota Fuoco e mitragliatrici, e slovene. Una di queste ultime è Oi Doberdob. Oh, propaganda bellica appiattisce tutto, la guerra riprende, le armi si perfezionano, mitragliatrici più veloci, cannoni più potenti, gas. In Francia una ditta reclamizza uno shrapnel più efficace degli altri. Nella relazione spedita dallo Stato Maggiore si sottolinea con enfasi che se la bomba colpisce in pieno un soldato, i frammenti delle sue ossa e i suoi denti diventeranno a loro volta micidiali proiettili. Sopra le trincee volano le nuove macchine da guerra, gli aeroplani. Sono già stati sperimentati in Libia per i bombardamenti. I piloti vengono dipinti retoricamente come i nuovi cavalieri che si affrontano in eroici duelli sui loro destrieri alati. Per i poveri fanti di trincea, sono solo borghesi e aristocratici privilegiati che fanno un gioco pericoloso e mortale, ma che non vivono l'inferno di fango e fuoco delle trincee. Quando si sente il rombo di un motore, dice un reduce, si spara verso l'aereo, a prescindere da quali siano le sue insegne. E quello è il nemico di classe. La propaganda bellica appiattisce tutto in un unico concetto, la patria. Per la patria si va in guerra con il sorriso sulle labbra, si accettano volentieri i disagi della trincea, si muore invocando il suo nome. La patria è la madre per cui i giovani di tutta Europa si sacrificano. La patria viene illustrata nelle cartoline come una donna a volte risoluta, a volte affranta, che può essere consolata solo dalla vittoria. E i figli, per far ritornare il sorriso a quella madre, non possono far altro che vincere. I generali sono i burberi padri della truppa, magari un po' severi, che però amano i loro soldati e paternalisticamente li rimproverano. Gli ufficiali, i fratelli maggiori, che applicano i rimproveri, ma spingono i militi verso la vittoria. Nell'immagine della propaganda, il soldato è sempre pulito, vigile e fiero, orgoglioso di adempiere al dovere. Se viene ferito, al suo capezzale c'è sempre la croce rossina che lindamente lo assiste. E la ferita mortale non è mai sanguinante. Al massimo, un gentile rivolo rosso che permette al soldato di rivolgere l'ultimo sorriso alla generosa infermiera e l'ultimo pensiero alla patria e all'inevitabile vittoria. Al di fuori della propaganda la verità è un'altra. La patria non è una donna, tantomeno una madre. È un mostro famelico che divora uomini. Un Moloch che si nutre dei cadaveri della gioventù europea sacrificati davanti a tecnologie di morte sempre più tremende e micidiali. Una macchina di burocrazia militare per la quale la vita umana non ha alcun valore. La patria non risparmia mai le vite dei propri soldati, anche quando il loro sacrificio è completamente inutile. I generali non sono padri burberi che rimproverano i militari, sono despoti onnipotenti che gestiscono la vita e la morte degli uomini. I loro rimproveri sono fucilazioni e decimazioni. Gli ufficiali non sono fratelli maggiori, sono gli esecutori di queste sentenze. Il soldato non muore pulito, non c'è la croce rossina al suo fianco quando esala l'ultimo respiro invocando la patria. Non c'è solo quella discreta macchiolina di sangue sul petto. Il ragazzo in divisa muore nella terra di nessuno, solo, urlando di dolore, dissanguato perché non ha più gambe o braccia. Muore mentre cerca disperatamente di rimettersi nell'addome i visceri che ne stanno uscendo. Muore di sete tra i due fronti, colpito da un proiettile che lo ha paralizzato, ma che non lo ha ucciso. Muore sprofondando lentamente nel fango delle buche scavate dai bombardamenti, rendendosi conto che presto quel fango lo soffocherà. Muore con i polmoni che bruciano o che gli esplodono per i gas. Muore bruciato vivo dai lanciafiamme o dalle bombe al fosforo. Muore ucciso dal suo ufficiale perché ha troppa paura per andare all'assalto. Muore per le raffiche dei carabinieri o delle mitragliatrici piazzate nelle retrovie per sparare a chi si ritira. Muore circondato da pezzi di cadaveri, da sangue, da merda, soffocato dal fumo, sepolto vivo dalla terra, tagliato a metà dalle raffiche, devastato da strege di metallo o di roccia. Non c'è nessuna infermiera in mezzo a quell'inferno. Muore solo. Un soldato tedesco scrive: «I camerati non muoiono con sulle labbra la parola patria. Si muore, ma l'ultima parola è per la mamma o per la persona più cara. Oppure è solo un grido di aiuto, altro che patria». Chi è fortunato non muore abbandonato tra le due trincee. finisce senza anestesia sotto i ferri di chirurghi capaci di amputare una gamba in 15 secondi. E forse c'è anche la Croce Rossina. Le Déserteur non è una canzone della Prima Guerra Mondiale, ma la presentiamo in questo contesto perché vi si inserisce perfettamente. È un pezzo scritto da Boris Vian nel 1954 in relazione alla guerra in Indocina. Il brano fu censurato e fino al 1962 ne furono vietate la trasmissione per radio, la stampa della partitura e la produzione discografica. La interpretiamo nella traduzione italiana di Ivano Fossati. In piena facoltà, egregio presidente, descrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Spinge i soldati a cercare soluzioni personali per evitarla. Molti tentano di disertare, spesso approfittando di licenze dalle quali non tornano. In Italia, bande di disertori si rifugiano in boschi e grotte nei pressi dei paesi di origine, ma la diserzione più frequente consiste nel tentativo di consegnarsi al nemico. A volte, approfittando della notte e di particolarità della terra di nessuno, macchie di vegetazione o abitati distrutti tra i due schieramenti, i soldati abbandonano le proprie postazioni e cercano di raggiungere quelle avversarie per consegnarsi prigionieri. È un'operazione rischiosissima. Si può essere scambiati per i ricognitori nella scoperta o per missioni di attacco sorpresa ed essere uccisi. Si può essere catturati da soldati nemici senza scrupoli che non fanno prigionieri. Oppure si può essere scoperti da qualche pattuglia del proprio esercito e finire davanti alla corte marziale. Per una disazione in faccia al nemico, la pena è quasi sempre la condanna a morte, per fucilazione in alcuni eserciti, per impiccagione in altri. Gli ufficiali sono autorizzati a sparare sul posto a coloro che ritengano stiano commettendo il reato di disazione. Quando i tribunali cominciano a rendersi conto di non poter fucilare tutti coloro che cercano di disertare o di eludere gli attacchi, i colpevoli vengono mandati in speciali compagnie di disciplina con incarichi particolarmente pericolosi. Altre volte vengono lasciati incatenati all'aperto nelle notti invernali, oppure sono portati in prima linea e legati in luoghi esposti al tiro del nemico. Il rapporto di uno dei tribunali di guerra racconta la storia di due alpini sul fronte carnico che, con il pretesto di andare a prendere legna per scaldare il loro rifugio, approfittando della vicinanza delle trincee austriache e della notte, si consegnano ai nemici. Il loro superiore, un caporale pluridecorato, mormora alla truppa: «Ora vado io a vedere a Studena». Evidentemente pensano per rintracciare i fuggiaschi. Invece non torna più. Ha disertato anche lui. La foto qui esposta ritrae un plotone di soldati australiani sul fronte francese. Prima di disertare in gruppo, spediscono questa foto al proprio ufficiale col commento «A revoir», firmato «Noi». Spesso si viene fucilati senza che vi sia stata nemmeno una reale disertione. Il caporale francese Henri Floch così scrive alla moglie: «Carissima Lucie, quando questa lettera ti giungerà sarò morto, fucilato. Ecco perché. Il 27 novembre ci fu un violento bombardamento contro le nostre postazioni di prima linea. I tedeschi sono riusciti a portarsi fino alla mia trincea e mi hanno fatto prigioniero con altri due camerati. Ho approfittato di un momento di confusione per sfuggire alle mani dei tedeschi. Ho seguito i miei camerati ed abbiamo raggiunto di nuovo le nostre linee. Ma in seguito sono stato accusato di aver abbandonato il mio posto in presenza del nemico. Siamo stati portati davanti al Consiglio di guerra. Sei sono stati condannati a morte, me compreso. Non sono colpevole più degli altri, ma noi siamo un esempio. Se invece di sfuggire ai tedeschi fossi rimasto prigioniero, sarei sopravvissuto». Altre volte la disertazione è una decisione meditata, ma che si realizza improvvisamente per una circostanza favorevole: un attacco alle trincee nemiche nel quale casualmente si perde contatto con i propri compagni o si finisce oltre gli obiettivi di offensiva, o, viceversa, un assalto del nemico al quale ci si consegna senza opporre resistenza. È ciò che accade nel 1915, quando quasi 1 milione di russi si arrende durante la ritirata sul fronte orientale, e nel 1916, quando invece 380.000 prigionieri austro-ungarici sono catturati dai russi durante l'offensiva Brusilov. Lo stesso succede a Caporetto. Migliaia di soldati prendono la palla al balzo per consegnarsi agli austriaci sperando che la disazione di massa ponga fine alla guerra. Un soldato austriaco scrive: «In quel momento si dava prigioniero una compagnia di italiani. Tutti contenti, dicevano: "Mannaggia la Madonna! Abbiamo ucciso il nostro capitano, abbiamo gettato lo zaino e il fucile e ci siamo dati prigionieri. Meglio in Austria che in Italia". Per i tribunali militari sono considerati la stregua di disertori anche coloro che si sbandano, che perdono contatto con il proprio reparto, che tornano dalla licenza con un giorno di ritardo. Curzio Malaparte scrive: «Nell'agosto del 1917, presso Belluno, fui obbligato ad assistere alla fucilazione di alcuni soldati calabresi rientrati dalla licenza con 24 ore di ritardo, non per colpa loro, ma per colpa del treno». Altri soldati tentano di sfuggire al fronte con gesti di autolesionismo, provocandosi ferite che li rendono inabili al servizio militare, ma che siano credibili come ricevute in combattimento. I soldati inglesi accusati di autolesionismo sono 3.500. gli italiani 10.000. Col procedere del conflitto, i medici militari diventano più attenti a identificare queste automutilazioni e mandano immancabilmente davanti alla corte marziale coloro che ritengono essere dei simulatori. Lo zelo degli ufficiali medici è tale che sempre più spesso vengono accusati di autolesionismo anche soldati effettivamente colpiti in combattimento. Visto il referto medico che li accompagna, la loro condanna a morte a pesanti pene detentive o a compagnie di disciplina è scontata. Alcuni soldati vanno semplicemente fuori di testa, estraneandosi dalla realtà e rifiutando tutto ciò che sta loro attorno. Esistono testimonianze di militari che improvvisamente abbandonano le armi ed escono dalla trincea, vagando persi per la terra di nessuno, spesso predati da un cecchino nemico o da un proprio commilitone, o altri che camminano come zombie nelle retrovie. Altri subiscono lo shell shock, l'incapacità di reggere la furia dei bombardamenti, si manifesta con un incontrollabile tremolio delle gambe o dell'intero corpo, con l'incapacità di camminare o addirittura di alzarsi in piedi. Di fronte al numero sempre maggiore di soldati colpiti da queste patologie nervose, gli eserciti procedono alla creazione di reparti psichiatrici in zone vicine al fronte, dove il soldato viene messo in condizione di tornare in prima linea, principalmente attraverso l'elettroshock. In pratica, si fornisce al paziente una sensazione ancora peggiore della guerra. Il soldato con patologie da shock psichico deve avere la percezione dell'ineluttabilità del suo futuro. Egli comunque non verrà mandato a casa. Il suo destino può essere solamente il ritorno in trincea o l'internamento definitivo in un ospedale psichiatrico. Alla fine della guerra, migliaia di reduci ritornano dal fronte con profonde turbe psichiche e mentali. Sono i cosiddetti scemi di guerra, che non riescono più a riprendere la propria vita di prima. In buona parte finiscono internati nei manicomi. La melodia di Gorizia tu sei maledetta non è originale. Come quasi tutti i brani nati nelle trincee, le parole sono state adattate su una musica preesistente. Il testo fu composto certamente poco dopo la sesta battaglia dell'Isonzo, che portò alla presa di Gorizia da parte degli italiani. Nella battaglia persero la vita circa 50.000 soldati italiani e 40.000 austro-ungarici. È diventata una delle canzoni più note di tutto il repertorio italiano riguardante la Prima Guerra Mondiale, sebbene si dica che durante la guerra chi veniva sorpreso a cantarla rischiasse una condanna per disfattismo. La propaganda trionfalistica successiva alla vittoria la fece quasi cancellare dalle memorie degli italiani. Ritornò improvvisamente celebre nel 1964, quando durante il Festival dei Due Mondi di Spoleto fu ripresentata da Michele Straniero. Alla strofa che definiva gli ufficiali traditori e macellai, due graduati, sensibili all'onore infranto della patria, si alzarono protestando sonoramente e denunciando in seguito tutto il cast dello spettacolo per vilipendio alle forze armate. La mattina del 5 d'agosto si muoveva le truppe in campione per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva a rovesci. Che voi ve ne state con le mogli nei letti di chiamate il campo d'onore. Questa terra al di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete oggi, cara moglie, che tu non mi senti. Raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col tuo nome nel cuore. Traditori, signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, scannatori di calde immutabile. Una censura sempre più pesante sulle comunicazioni verso casa. Un sempre minore avvicendamento in prima linea. Licenze sempre più limitate. La certezza dell'inutilità di attacchi offensive. Il progressivo esaurimento psicofisico. La sempre più diffusa percezione da parte dei soldati che la guerra non finirà mai perché qualcuno ha l'interesse che continui all'infinito, minano sempre di più il morale delle truppe. Il disagio dei soldati aumenta, gli episodi di insofferenza alle autorità militari si diffondono. Ai tentativi individuali di evadere la guerra seguono sempre più spesso atti di insubordinazione collettivi, spesso causati da ingiustizie subite dai soldati, che via via acquisiscono motivazioni più generali. Anche il fronte interno inizia a cedere. Scioperi e rivolte per il pane si susseguono in tutti i paesi europei. Nel 1917 cominciano a verificarsi dappertutto episodi di ammutinamento. In maggio e in giugno, numerosi soldati francesi rifiutano di prendere posizione sulla linea del fronte. 68 divisioni su 110 che compongono l'armata francese sono interessate dalle rivolte. Dai 30 ai 40 mila soldati francesi vengono coinvolti negli ammutinamenti, con gli episodi più violenti sullo Chemin des Dames. Più che di rivolte organizzate di ammutinamenti a scopo politico, si tratta di una sorta di sciopero della guerra da parte di soldati sfiniti che rifiutano di andare a combattere per le condizioni proibitive della vita al fronte. Anche in altri eserciti si verificano episodi analoghi. In settembre, soldati neozelandesi e australiani prendono il controllo di un campo di addestramento, mentre nel Kent viene fondato un consiglio dei soldati e degli operai. Nell'estate del 17, una rivolta esplode in Texas in una caserma dei Buffalo Soldiers, i soldati americani di colore, e i rivoltosi marciano su Houston. Nel successivo processo, 19 di essi vengono condannati a morte. Nello stesso mese, il corpo di spedizione russo in Francia si rivolta e stabilisce la creazione di un soviet dei soldati. L'ammutinamento viene represso nel sangue da truppe francesi e russe lealiste. Sul fronte orientale, i fanti russi sempre più spesso non rispondono ai propri ufficiali, soprattutto a causa delle notizie confuse e contraddittorie che arrivano da casa e per la carenza di viveri. Si diffondono voci secondo cui nella madrepatria la polizia sta sparando sui manifestanti civili. Scoppiano rivolte dappertutto. La 20ª divisione siberiana si ammutina. L'equipaggio dell'incrociatore Aurora si impadronisce della nave. La guarnigione di Pietrogrado si rifiuta di sparare sulla folla che protesta per il pane e fraternita con i manifestanti. Lo zar è costretto a dimettersi. Il soldato russo non ha più la percezione del perché e del per chi stia combattendo. Si formano soviet di soldati che sempre più provvedono all'organizzazione e all'approvvigionamento dei militari e non intendono più supportare lo sforzo bellico russo. Tra marzo e maggio si verificano 20 episodi di ammutinamento di grosse dimensioni. Nell'autunno del 17, con la caduta del governo provvisorio di Kerensky, anche l'esercito si dissolve. I militari tornano alle loro case, invocando la pace. Anche l'esercito ottomano comincia a disfarsi. Nel dicembre del 1917 si contano oltre 300.000 disertori a causa dell'esaurimento dei soldati e della mancata consegna di stipendi, cibo e vestiti. Atti di ammutinamento collettivo si verificano pure tra le truppe italiane. Nel 1917 episodi di rivolta coinvolgono numerose brigate che combattono sul fronte dell'Isonzo. In luglio alcuni reggimenti della brigata Catanzaro rifiutano di tornare in prima linea e cercano di attaccare la vicina residenza di D'Annunzio. La protesta sfocia in una vera e propria rivolta, al grido di «Abbasso la guerra! Morte ad Annunzio! Vogliamo la pace!» ma viene repressa da carabinieri, reparti di cavalleria, artiglieria e addirittura aerei. Come nel caso francese, più che di rivolte organizzate, si tratta del rifiuto dei soldati a sottostare alla draconiana disciplina imposta alle truppe e ai trementi disagi della trincea. Per certi versi, anche la rotta di Caporetto può essere definita il risultato di una rivolta collettiva e di uno sciopero della guerra da parte dei soldati. Quando è chiaro che lo sfondamento austro-tedesco sta avendo successo e che opporsi all'avanzata è un suicidio, migliaia di italiani si arrendono, sperando che l'offensiva austriaca significhi finalmente la fine della guerra. Si grida, la guerra è finita, viva la pace! Si grida, morte al re! Si incitano i nemici, a Torino o a Milano, purché la guerra finisca. Come sempre i carabinieri sparano contro gli sbandati, ma questa volta i soldati in rotta rispondono al fuoco, mettendoli in fuga. Nel caos della ritirata si scatena una caccia al carabiniere. Scrive Curzio Malaparte. La legge era il carabiniere. I fanti massacravano i carabinieri. I carabinieri assassinati in trincea non si contano. Quelli impiccati o pugnalati nelle retrovie non hanno numero. I pezzi grossi degli alti comandi si fermavano davanti al cadavere del carabiniere, leggevano il cartello appeso dai fanti al petto della vittima, aeroplano abbattuto, e non ne capivano niente. Nel gergo dei fanti, i carabinieri erano chiamati aeroplani sia per la foggia del loro cappello, sia perché sparavano sui soldati, esattamente come gli aviatori nemici. Continua Malaparte. Quali rimedi le ammiccavano i comandi? Le fucilazioni. In quasi tutti gli eserciti le rivolte sono represse ferocemente. I soldati identificati a torto o a ragione come promotori degli ammutinamenti vengono processati sommariamente e fucilati. Quando non si trovano presunti responsabili o si decide di dare una punizione esemplare, si ricorre alla decimazione, l'estrazione a sorte di soldati nei reparti che si sono rivoltati. Emanuele Filiberto di Savoia, che alla propria morte vorrà essere sepolto in Puglia accanto ai suoi soldati, ordina: intendo che la disciplina regni sovrana fra le mie truppe. Perciò ho approvato che nei reparti che sciaguratamente si macchiarono di grave onta, alcuni, colpevoli o no, fossero immediatamente passati per le armi. Chissà quanti poveri cristi fatti fucilare da Emanuele Filiberto sono sepolti a pochi metri dal loro carnefice. Un soldato francese coinvolto nell'offensiva sul Chemin de Dames, presso il quale sorgeva il villaggio di Craon, scrive alla moglie: il 16 aprile il generale Nivelle ha lanciato un nuovo attacco. È stato un disastro, un fallimento completo. Ovunque morti, i soldati cadevano urlando di dolore. Il campo di battaglia mi dava la nausea. Davanti a me c'erano corpi come in una fossa comune. Questo attacco ci ha disilluso. Non sopportiamo più i sacrifici inutili e le menzogne dello Stato Maggiore. Tutti i combattenti non credono che sopravviveranno. Molti hanno disertato e altri non vogliono più marciare. Girano dei volantini che ci esortano a deporre le armi. La scorsa settimana l'intero reggimento non è uscito di nuovo dalla trincea. Abbiamo rifiutato di continuare ad attaccare, ma non a difendere. Allora i nostri ufficiali sono stati incaricati di giudicarci. Sono stato condannato a passare davanti a un consiglio di guerra straordinario. senza alcun appello possibile. La sentenza è presa. Devo essere fucilato come esempio, assieme a 6 miei camerati, per rifiuto all'obbedienza. Con la nostra esecuzione, i nostri superiori hanno l'obiettivo di aiutare i combattenti a ritrovare il gusto per l'obbedienza, ma non credo ci riusciranno. Comprenderai, Leonie, che non sono colpevole, ma vittima di una giustizia sommaria. Finirò nella fossa comune dei morti indegni, dimenticati della storia. Non morirò al fronte, ma con gli occhi bendati, all'alba, inginocchiato davanti al plotone d'esecuzione. La Chanson de Craon è un brano di protesta francese, nata nel 1915. Il testo originario si componeva delle sole strofe di rimpianto per la vita, le donne e per le terribili condizioni di vita delle trincee. Dopo la battaglia di Verdun del 1916, gli ammutinamenti del 1917 sul fiume Aisne e sull'onda della rivoluzione bolscevica, vennero aggiunte esplicite strofe di protesta che auspicano la rivolta contro i grassi borghesi che si stavano arricchendo proprio grazie alla guerra. La canzone venne proibita come grave atto di insubordinazione e di disfattismo. Si tramanda che lo Stato Maggiore dell'esercito francese promise 1 milione di franchi e la smobilitazione immediata a chi avesse denunciato l'autore del testo. Notre place est si hautée. Vengono combinate 554 condanne a morte. Ne vengono eseguite una cinquantina. Pour l'exemple, viene scritto nei verbali francesi. Shot at dawn, fucilati all'alba, in quelli inglesi. Per il presunto ammutinamento della brigata Ravenna, vengono passati per le armi due soldati trovati a dormire nell'accampamento dove si era verificata la rivolta, più altri cinque estratti a sorte. Per un altro episodio, così scrive un testimone. Un reggimento di fanteria aveva rifiutato di raggiungere la trincea, sparando alcuni colpi di fucile in aria. Il comandante effettuò un'indagine e, non riuscendo a risalire i colpevoli, ordinò la decimazione. Il fatto era avvenuto il giorno 28 e l'ordine venne impartito il 30, ma il 29 erano arrivati i complementi. L'ufficiale incaricato del sorteggio chiese se doveva escluderli dal provvedimento, considerando che non potevano aver preso parte alla rivolta, ricevendo risposta negativa dal colonnello. Fu così che su 10 estratti, 2 appartenevano ai ricalchi appena arrivati. Al momento dell'esecuzione, uno di loro, già bendato, si rivolse al comandante, dicendo: «Signor colonnello, io sono della classe del 75, io sono padre di famiglia. Io il giorno 28 non c'ero, in nome di Dio!» Il colonnello, con fare paterno, gli rispose: «Io non posso cercare tutti quelli che c'erano o che non c'erano. La nostra giustizia fa quello che può. Se tu sei innocente, Dio te ne terrà conto. Confida in Dio!» L'uomo fu legato insieme agli altri. I carabinieri spararono, ma 3 soldati restarono solo feriti, e tra loro vi era l'anziano soldato, che si rialzò e urlò: «Signor colonnello, grazie per la mia famiglia, in nome di Dio!» Il comandante rispose: «Dio ti vede, Dio ti giudicherà», e lo fece uccidere. Il giorno dopo il reparto uscì all'assalto guidato dal colonnello assassino, che cadde tra i primi, ma le ferite erano, secondo i testimoni, in maggior numero sulla schiena che sul petto. Le esecuzioni sommarie arrivano ad un parossismo tale che anche piccoli atti di insubordinazione sono puniti con la morte. Durante la rotta di Caporetto, il generale Andrea Graziani fa fucilare 57 presunti disertori, alcuni per ragioni assurde, come il soldato Alessandro Ruffini, che viene messo al muro per averlo salutato tenendo il sigaro acceso in bocca. Qualche anno dopo la fine della guerra, il generale Graziani muore cadendo misteriosamente da un treno. La voce più accreditata sulla sua fine è che sul vagone abbia incontrato alcuni vecchi compagni d'arme di qualche sua vittima. La guerra prosegue e via via gli ammutinati mostrano sempre più una consapevolezza politica. Il livornese Alessandro Signorini, davanti al platone d'esecuzione, urla ai suoi compagni: «Maledetta patria, schifosa bandiera, voltate le spalle a chi vi fucila!» La rivoluzione bolscevica, l'uscita della Russia dal conflitto e la crescente insofferenza alle autorità in tutti gli eserciti rendono plausibile la rivolta non solo come atto di ribellione, ma anche come possibilità reale di concludere il conflitto. Nel febbraio del 1918, marinai della flotta austro-ungarica di stanza a Cattaro proclamano l'ammutinamento e issano la bandiera rossa sulle navi, ma la rivolta viene repressa. Con il crollo della Russia, molti soldati tedeschi ed austriaci si aspettano di essere congedati. Quando vengono a sapere che verranno inviati sul fronte occidentale, su quello italiano o su quello balcanico, si verificano ammutinamenti in Germania, Austria, Boemia, Ungheria e nella Serbia occupata. A Judenburg e a Ratzeburg in Stiria, i soldati si rivoltano e sventolano la bandiera rossa. Altri, invece, preferiscono scappare oltre la linea di armistizio e fraternizzano con i russi. In estate sono circa 230.000 i soldati austro-ungarici considerati disertori. La nuova disponibilità di truppe provenienti dal fronte orientale e la contemporanea consapevolezza del progressivo esaurimento degli uomini e delle risorse spinge il comando tedesco a provare il tutto per tutto prima che l'intervento degli americani faccia pendere definitivamente la bilancia a favore dell'intesa. Tra marzo e agosto viene lanciata una serie di offensive che dopo iniziali successi si arenano una dopo l'altra per stanchezza. In alcuni casi gli attacchi si interrompono non appena i reparti raggiungono qualche deposito di viveri alleato. Anziché continuare nell'avanzata, gli uomini, affamati ed esausti, si fermano a mangiare e riposarsi. Ormai consci che la continuazione della guerra è assurda, i soldati tedeschi cominciano a ritirarsi e a ritornare alle proprie case, oppure si consegnano al nemico senza più combattere. In estate, oltre 1 milione di essi sta disertando. Anche nell'esercito austriaco non si ubbidisce più agli ordini. Intere compagnie si ritirano. Quando con la battaglia di Vittorio Veneto gli italiani sfondano le linee, spesso le trovano semplicemente vuote. In pratica, la guerra si conclude con una disertione di massa. Milioni di soldati spossati semplicemente non eseguono più gli ordini e tornano a casa. Il comando della Marina tedesca, vista la crescente disgregazione dell'esercito e dell'autorità militare, progetta di lanciare la flotta contro quella inglese in un'ultima epica ed apocalittica battaglia dal sapore wagneriano. Contro questa folle prospettiva, i marinai dei porti militari di Wilhelmshaven e di Kiel issano le bandiere rosse sulle navi, arrestano gli ufficiali e proclamano la creazione di soviet dei soldati e degli operai. In pochi giorni la rivolta divampa in tutta la Germania e i militari incaricano le autorità civili di firmare l'armistizio. Sono un soldato, ma non mi piace. È il titolo di questa canzone tedesca. Nata in occasione della guerra franco-prussiana del 1870, di questo brano venne persa la memoria per quasi tutta l'età guglielmina. Ritornò in auge verso la fine della Prima Guerra Mondiale. Alla canzone fu aggiunta l'ultima strofa che parla di fratellanza tra i popoli e di lotta ai tiranni. Nell'esercito tedesco ed in quello austro-ungarico divenne una sorta di inno alla rivolta. Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne, als es war, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne, gefangen war ich wie ein Hirtejahr. Ja, von der Heimat, von der lieben Herzen, muss ich mich weg und von der Freundekreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust der Zorn und Blut so heiß. Ich bin Soldat und Tag und Nacht marschieren, statt an der Heimat Schmutz und Post entstehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss der Hoff und frische Bruschen sehen. Geht's in Fels, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu leid was tat. Doch für die Gruppe traf ich von den Worten und um den Rumpf ich dann die Fahrt zu tragen. La cessazione delle ostilità è prevista per le 11 dell'11 novembre, ma ancora nelle prime ore del mattino alcuni alti ufficiali degli eserciti vittoriosi ordinano attacchi per avere l'onore di aver guidato l'ultima azione di guerra o per guadagnare promozioni sul campo. Anche alcune postazioni di artiglieria continuano a sparare fino all'ultimo minuto utile, per finire i proiettili e non dover smobilitare troppe munizioni non usate. Si calcola che il numero di soldati caduti nel mattino dell'11 novembre 1918 sia attorno agli 11.000. In Francia non esistono caduti dell'11 novembre. Per questioni pensionistiche sono stati tutti retrodatati al giorno prima. Cosa produce questa guerra? Niente di buono. Non produce pace, perché guerre localizzate continueranno per anni. Non produce equilibrio, anzi, il continente europeo si trova più instabile di prima. Non produce giustizia, con i tedeschi identificati come unici colpevoli dello scoppio della guerra e costretti a pagare danni bellici che distruggono l'economia della Germania. Non produce equità sociale, ed infatti alla guerra seguiranno anni di lotte ininterrotte per i diritti dei lavoratori. Non produce democrazia, produce invece la militarizzazione della società, sia nei paesi vincitori che in quelli vinti, con un accresciuto prestigio da parte delle gerarchie militari che sfocerà nella saldatura tra militari, reduci e movimenti di estrema destra, generando fenomeni autoritari come il fascismo e il nazismo. Produce la percezione collettiva che con la tecnologizzazione della guerra e l'enorme sviluppo dell'industria bellica la vita umana abbia perso qualsiasi valore. Produce la convinzione che con il conflitto non sia stato risolto nulla, che i milioni di morti non abbiano minimamente contribuito a creare una società migliore, anzi che dalla guerra sia emersa una società ben più complessa e iniqua di quella precedente. Produce, 20 anni più tardi, un'altra guerra, ancora più sanguinosa e devastante. E, per quanto riguarda gli individui, produce questo. 11 milioni di morti militari, quasi 3 milioni di civili uccisi nelle operazioni belliche ed altri 5 milioni di civili morti in conseguenza della guerra, di malnutrizione o malattia. Produce milioni di vedove ed orfani che hanno perso chi dava loro sussistenza. Produce milioni di reduci distrutti nella psiche e nel corpo, milioni di persone che non riusciranno più a recuperare un proprio equilibrio, un proprio ruolo sociale. Produce migliaia di fanatici che non riescono più a uscire dal ruolo violento che la guerra ha pioppato loro e che costituiranno la massa di manovra dei movimenti paramilitari fascisti e nazisti. Produce migliaia di pazienti psichiatrici, ormai incapaci di riprendere un proprio posto nella società, che verranno confinati a vita nei manicomi o saranno messi ai margini della vita sociale. Gli scemi di guerra che per decenni rappresenteranno l'inquietante eredità del conflitto. Produce migliaia di mutilati senza il necessario sostegno da parte della patria che hanno difeso. Migliaia di giovani sfigurati senza un futuro, persone da nascondere, perché troppo impressionanti per lasciarli liberi. Testimoni viventi di quella carneficina che è stata la guerra, ben lungi dalla romantica ed eroica avventura illustrata dalla propaganda e dalle gerarchie militari. In molti paesi i mutilati, con ferite troppo evidenti o sfigurati, troppo scioccanti per la gente comune, vengono rinchiusi vita naturale durante in cliniche isolate, senza contatti con l'esterno. Qualche chirurgo plastico riuscirà con i primi interventi di plastica facciale a ricostruire approssimativamente quei volti devastati, ma per altri la soluzione sarà indossare per sempre delle maschere. Non c'è nulla da ricordare con orgoglio, niente da festeggiare negli anniversari della vittoria. C'è solo da commemorare un massacro gigantesco e inutile, milioni di vite spezzate, una generazione intera spazzata via per l'interesse di pochissimi e attraverso l'imbroglio della propaganda patriottica. Una propaganda che continua ancora oggi. Nel 2008, in Francia, morirono gli ultimi due veterani. Uno di essi aveva passato gli ultimi anni della sua vita a spiegare cos'è la guerra. La guerra? Un imbroglio assurdo, inutile. A cosa serve massacrare la gente? Nulla la può giustificare, niente. La gloria e l'eroismo? Fumo. Il patriottismo? Un modo per farci ingoiare qualsiasi cosa. La guerra è semplicemente disgustosa. Il Presidente della Repubblica propose che per l'ultimo di essi fosse prevista una cerimonia funebre ufficiale all'Hotel des Invalides e fosse sepolta al Pantheon, ma i due respinsero la proposta affermando: molti dei nostri compagni non hanno neanche avuto il diritto a una croce di legno. Nonostante il deciso rifiuto, lo Stato francese tributò all'ultimo reduce solenni funerali di Stato alla presenza delle più alte autorità militari. La televisione mostrò ancora le ultime interviste ai due reduci, ma tutte le frasi contro la guerra furono tagliate. Giulio Stamina. Piero Curie. Grazie a Stefano che ci ha aiutato con lo slide, un grazie per l'invito, grazie.